Ciao ragazzi, lo sapete già, ma ve lo ripeto perché siete degli zucconi. Se avete bevuto, non guidate. L'alcol mette sonno, riduce la capacità visiva e rallenta i riflessi. E se proprio vi è scappato di bere un bicchierino in più, fate guidare qualcun altro. Un augurio di vacanze coi fiocchi da Vito. Quest'estate sulle strade, dai un passaggio alla sicurezza. Vacanze coi fiocchi a tutti.